Innanzitutto nasce quasi per una coincidenza. Noi ovviamente lavoriamo su queste questioni, insomma ci occupiamo di storia, memoria e rapporto con i luoghi che la storia e la memoria attraversano. Abbiamo fatto poco tempo fa un incontro con tutte le città gemelle di Bologna nei confronti della resistenza in Cirenaica, quindi tutte le organizzazioni, varie città che si occupano di quello che si occupano noi, sono venute a Bologna e discutendo tra noi a un certo punto qualcuno ha detto: ah, ma noi abbiamo ancora la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, mica come voi a Bologna. E noi siamo rimasti un attimo fermi a pensarci e abbiamo detto: no, però non siamo proprio sicuri che Bologna non abbia ancora la cittadinanza onoraria. E quindi siamo andati un po' a scavare e abbiamo scoperto che Bologna, ai noi, ha ancora tra i suoi cittadini onorabili e illustri Benito Mussolini. E quindi abbiamo cominciato a esplorare un po' il panorama delle cittadinanze onorarie conferite al Duce e ad alcuni gerarchi fascisti e abbiamo scoperto che sono tantissime, ma soprattutto abbiamo scoperto che non c'è un elenco ufficiale, diciamo, non c'è un luogo in cui trovare queste informazioni unitariamente. Sono tutte molto frammentate, sono tutte informazioni che arrivano spesso da realtà locali, possono essere, che ne so, il sito di un comune che ha messo online la delibera con cui ha deciso di revocare o di lasciare la cittadinanza onoraria a Mussolini, oppure sono semplicemente delle notizie che vengono dalla stampa locale che riporta una piccola querela che c'è stata a livello locale, appunto. Per cui abbiamo cominciato a pensare che era il caso di mettere assieme tutte queste informazioni, però non essendo informazioni totalmente attendibili, tra virgolette, perché non sono ufficiali, quindi abbiamo messo online una mappa in progress, diciamo, in divenire, in cui abbiamo cominciato ad aggiungere tutti i luoghi che sono infestati, disinfestati o reinfestati, li abbiamo chiamati così, dalla presenza di questo genius loci maligno. E quindi abbiamo chiesto anche a tutti i nostri interlocutori in giro per l'Italia di darci una mano, ma chiunque, storici, ma anche cittadini comuni, addetti ai lavori o persone appassionate o persone che siano informate come giornalisti sui fatti locali, che ci possano aiutare a districare un po' questo ginepraio, a tracciare una mappa che altrimenti non esiste. Il tutto è successo molto molto velocemente, devo dire. Ci siamo forse fatti prendere dall'entusiasmo di questo progetto, in poche settimane l'abbiamo messo in piedi e abbiamo già tracciato un transetto abbastanza complesso e variegato, è un mosaico molto curioso. Abbiamo individuato 4 categorie topografiche: città infestate, cioè sono quelle che hanno ancora come cittadino onorario Mussolini e la sua cittadinanza non è mai stata messa in discussione, oppure sono le città che sono state disinfestate, cioè quelle città che hanno revocato la cittadinanza a Benito Mussolini e a eventuali gerarchi. Il terzo tipologia invece sono le città reinfestate, cioè sono quelle città che dopo aver votato per revocare la cittadinanza l'hanno confermata. Infine c'è un ultimo tipo, un quarto tipo, sono le città infestate magari non da Benito Mussolini ma da alcuni gerarchi fascisti, come il caso eclatante di Milano, che non diede mai la cittadinanza onoraria a Mussolini ma che la diede ad esempio a Del Bono, a Balbo e a Graziani. Un panorama abbastanza complesso che però stiamo cercando di rendere così accessibile a tutti. Mi ha colpito nella presentazione appunto della call il fatto che ci siano anche alcune amministrazioni di sinistra che abbiano mantenuto la cittadinanza onoraria a Mussolini facendo appello alla necessità di preservare la storia. Sì, nel frattempo sono arrivate tantissime segnalazioni. L'ultima che è arrivata arriva da Finale Ligure ed è proprio uno di questi casi. Un'amministrazione di sinistra ha deciso di preservare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Il fatto è che molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, le amministrazioni di sinistra che fanno questo tipo di scelta, cioè di riconfermare la cittadinanza onoraria a Mussolini, si appellano alla memoria, al conservare la storia e tirano in ballo la benemerita, tra virgolette, veramente cancel culture, cioè la cultura della cancellazione. Secondo noi stanno facendo esattamente il contrario, cioè sono loro che stanno facendo cancel culture, perché conservare nell'albo d'oro della propria città, tra cittadini illustri e onorabili, Benito Mussolini, è cancellare effettivamente con un colpo di spugna tutto ciò che Mussolini ha fatto e ha rappresentato, e tutto ciò che poi è avvenuto dopo influenzato da lui, memore di quello che è stato fatto dal fascismo, come dire, è stato un ispiratore di stragi, no? Voglio dire, Bologna ha ancora la cittadinanza onoraria a Mussolini, ma oltre a essere stata medaglia d'oro della resistenza, oltre a aver combattuto la battaglia di Porta Lame, ecco, voglio dire, c'è stata anche la strage neofascista, che comunque trae ispirazioni dal regime di Mussolini, per cui ci sembra veramente assurdo parlare di cancel culture in questo caso. La cancel culture è lasciare la cittadinanza a Mussolini, negando così tutte le responsabilità del regime fascista e della figura di Mussolini, che è effettivamente, come dire, il genius loci, l'incarnazione di quel regime e di tutto ciò che ha ispirato. Per cui sono, secondo me, in certi casi, magari anche genuinamente, alcune amministrazioni non vogliono toccare questa cittadinanza perché ritengono che sia effettivamente una testimonianza storica. In altri casi forse sono convenienze politiche, però qui dovremmo andare con la lente di ingrandimento a vedere amministrazione per amministrazione. Insomma. Dove si può trovare la mappa e le possibilità anche di collaborare? Allora, la mappa si trova online sul sito di Resistenza in Cirenaica, che è www.resistenzaincirenaica.com, è il sito anche della Federazione delle Resistenze. Per collaborare all'articolo che troverete legato alla mappa, che si chiama Pennywise, che è questa crasi tra Benito Mussolini e Pennywise, no? Come spirito maligno che infesta un luogo, ecco, la trovate lì. E per collaborare a Pennywise potete scrivere un'email a quadernidicirene@gmail.com o al limite lasciare un commento, poi noi lo verifichiamo, lo proviamo e interveniamo.